potatv.it. Oltre lo specchio, dentro la mente. Scienza, affordance e vita quotidiana con il tuo cane. Benvenuti in una nuova prospettiva della cinofilia moderna. scuolaformazionecinofila.it. Immaginiamo per un attimo una scena super comune in città. Traffico pazzesco, clacson che suonano in continuazione, persone che camminano veloci sui marciapiedi. E in mezzo a tutto questo caos c'è un cane perfettamente immobile. Cioè non abbaia, non tira il guinzaglio, non fa una piega se qualcuno gli passa vicino, o peggio, allunga la mano per accarezzarlo all'improvviso. E insomma, chiunque passi di lì probabilmente pensa tra sé e sé, ma che bravo, che animale incredibilmente calmo ed educato. Ma è questo il punto. La biologia moderna ci svela una realtà che è, direi, quasi agghiacciante. Quel cane potrebbe non essere affatto calmo, potrebbe essere talmente terrorizzato da letteralmente essersi spento dall'interno. Sì, ed è un cambio di prospettiva, brutale, se vogliamo, ma del tutto necessario. Sai, per decenni si è guardato al comportamento animale, e specialmente a quello dei cani, come a una sorta di ingegneria meccanica, no? Causa ed effetto. Tipo un distributore automatico. Esattamente, cioè premi un pulsante e ottieni un'azione. E quindi la logica era, se il cane non si muove, significa che sta obbedendo, o che è tranquillo. Ma nel momento in cui si inizia a studiare davvero la neurobiologia della percezione, beh, quell'illusione di controllo perfetto va in mille pezzi. Ed è proprio quello che vogliamo fare in questa immersione profonda di oggi. Perché abbiamo tra le mani le fonti e gli appunti tratti da un testo davvero illuminante che si intitola Il corpo che sa. E quello che emerge da questo materiale non è solo un manuale sul comportamento animale. È, insomma, una lente completamente nuova. Assolutamente. La nostra missione oggi è decostruire un po' l'antico mito dell'addestramento puramente meccanico e arrivare a capire quella che le fonti chiamano la biologia della risonanza. Cioè, vogliamo esplorare come un organismo elabora la realtà. E la cosa pazzesca è che, capendo questo, impariamo tantissimo su come funziona il sistema nervoso in generale, anche il nostro. Certo. E per farlo, il punto di partenza obbligato è capire come vengono elaborati i dati sensoriali. Cioè, in ogni singola frazione di secondo, senza che ci sia nessuna partecipazione cosciente, il sistema nervoso valuta l'ambiente. Deve rispondere praticamente a una sola domanda vitale. Questo posto è sicuro o è una minaccia? Un calcolo biologico continuo, in pratica. Incessante. E questo ci porta al cuore del cervello, a una struttura minuscola ma davvero potente, che è l'amigdala. Ah, l'amigdala. Spesso capita di sentire etichettare qualcuno o un cane come nervoso di natura, ma il materiale spiega che c'è una meccanica precisissima dietro questa reattività, giusto? Esatto. L'amigdala funziona, diciamo, come la centralina di allarme del sistema nervoso. C'è un modello neuroscientifico, quello di Joseph Ledoux, che lo spiega in modo magnifico. Praticamente le informazioni sensoriali arrivano all'amigdala attraverso due percorsi simultanei. C'è la cosiddetta via bassa, che è un percorso istintivo, molto grezzo e ultrarapido. Bypassa la parte razionale? Completamente. Bypassa la corteccia cerebrale. È quel meccanismo di pura sopravvivenza che, per farti un esempio, ti fa fare un salto all'indietro se vidi con la coda dell'occhio qualcosa di lungo nell'erba. Ah, certo. Lo fai prima ancora di aver capito se è un serpente velenoso o un tubo di gomma per annaffiare. Quindi prima si salta e poi si pensa. Esatto. Poi c'è l'altro percorso, la via alta. Questa è più lenta. Il segnale passa per la corteccia, viene elaborato in modo razionale. E a quel punto la mente ti dice, calmati, è solo un tubo di gomma, e l'allarme si spegne. Che, detto così, sembra un sistema geniale, super efficiente. Cioè, c'è un pericolo, scatta l'allarme, il pericolo passa e l'allarme rientra. Ma immagino che il problema grosso nasca quando l'ambiente in cui si vive non permette mai a questo allarme di spegnersi. Purtroppo sì, è proprio lì che il sistema si inceppa. Se c'è un'esposizione costante a fattori di disturbo, si scivola nello stress cronico e l'amigdala non è progettata per restare accesa per sempre. Inizia a subire un cambiamento fisico, si sensibilizza. Diventa iperattiva. Sì, la sua soglia di attivazione si abbassa in modo drastico. Quindi inizia a leggere come minacce letali degli stimoli che in realtà sarebbero neutri o del tutto innocui. L'organismo resta intrappolato in una specie di ciclo di sopravvivenza permanente. E questo si ricollega a un concetto delle fonti che mi ha colpito tantissimo. Il carico allostatico. Non è solo un termine accademico, è letteralmente la somma di tutte le fatiche adattative che il corpo paga. Esatto, il costo energetico. E per renderlo visibile a chi ci ascolta, c'era questa analogia fantastica. Immaginiamo di tornare a casa carichi di borse della spesa. Si hanno entrambe le braccia piene di buste pesantissime, quelle che ti segano le dita. Sì. Quelle borse rappresentano lo stress cronico. Che so, l'ansia da separazione, il rumore del traffico urbano, la mancanza di sonno. Insomma, si sta facendo uno sforzo titanico solo per camminare. Poi si arriva davanti alla porta di casa e qualcuno ci lancia un banale mazzo di chiavi per farci aprire. E che succede? Che per cercare di prendere le chiavi casca tutto. Le borse, la spesa, un disastro. È un'analogia perfetta per descrivere quello che nel cane chiamiamo tilt o, insomma, la crisi. Ma la cosa cruciale, e qui voglio rimarcarlo, è che non si è fatto cadere tutto per colpo del mazzo di chiavi. Certo che no. Le chiavi pesano pochi grammi. Il sistema è crollato perché, semplicemente non c'erano più risorse per reggere un solo grammo in più. Esattamente così. Nel mondo reale di un cane, il suono di un campanello o magari una bicicletta che passa all'improvviso fungono proprio da mazzo di chiavi. Sono l'innesco finale. Quindi, quando assistiamo a una reazione che ci sembra sproporzionata, un abbaio isterico, incontrollabile, non stiamo guardando un capriccio. Non è dispetto. No, stiamo assistendo alla prova fisica che quell'organismo ha esaurito del tutto la sua capacità di modulare le emozioni. Le sue risorse allostatiche sono a zero. Però, aspetta, c'è un pezzo di questo puzzle che, cioè, mi destabilizza un attimo. Se l'amigdala abbassa la soglia e il corpo è pieno di cortisolo ed adrenalina, cioè, la logica mi suggerisce che dovremmo sempre vedere un'esplosione, no? Un tilt visibile. Invece, tornando alla scena iniziale del cane del traffico, a volte vediamo una paralisi totale. Come si spiega questo immobilismo se il sistema è sovraccarico? E questa, direi, è forse la scoperta più rivoluzionaria della neurofisiologia moderna. Stiamo parlando del sistema polivagale, una teoria sviluppata da Stephen Porges. Sai, per tanto tempo si pensava che la risposta allo stress fosse binaria: combatti o fuggi. Il classico interruttore acceso o spento. Esatto, ma Porges ha dimostrato che non è affatto così semplice. Il sistema nervoso autonomo reagisce al pericolo seguendo una gerarchia a tre livelli. E tutto si basa su quella che lui chiama neurocezione, che è una sorta di radar inconscio del pericolo. Ok, tre livelli. Quindi? Il primo livello, quello più evoluto, è il complesso vagale ventrale. È il circuito della sicurezza. Quando l'organismo si sente al sicuro, usa l'energia per digerire, per giocare, per l'ingaggio sociale. Il battito è calmo, i muscoli facciali sono rilassati. Lo stato in cui, insomma, vorremmo essere tutti. Certo, ma se questo radar, la neurocezione, capta un pericolo, il sistema spegne il vagale ventrale e passa al secondo livello, il sistema nervoso simpatico. Qui scatta la mobilitazione, aumenta il cortisolo, il respiro si fa corto, ci si prepara a lottare o a scappare. Ok, combatti o fuggi. Esatto, ma questa è una strategia per le minacce che il cervello giudica ancora gestibili. E se non è gestibile? Cioè, se l'animale è letteralmente in trappola o lo stimolo è semplicemente troppo forte, è qui che subentra il terzo livello. Proprio così. E parliamo del circuito più antico in assoluto. Un'eredità rettiliana. Il complesso vagale dorsale. Se la minaccia è percepita come inevitabile, sovracchiante, il sistema capisce che lottare o scappare farebbe solo sprecare preziose energie. Quindi opta per una strategia di sopravvivenza estrema, l'immobilizzazione. Il freezing. Si blocca completamente. Dissociazione emotiva. Praticamente l'organismo si spegne per non sentire l'impatto di quella che considera una fine imminente. Caspita. Questo è una rivelazione potentissima. E mi fa chiedere, cioè, quante volte gli esseri umani fraintendono questa reazione? Se vediamo un cane di marmo sul tavolo del veterinario o magari un cane che si fa stringere forte da un bambino sconosciuto senza emettere un fiato, la reazione tipica è lodarlo. Guardate che bravo, che pazienza, è calmissimo. Invece la biologia ci urla che quell'animale si è arreso. È un errore gravissimo ed è un malinteso che può fare danni profondi. Se si confonde il blocco vagale dorsale, che, ripeto, è puro terrore, con una tranquilla rassegnazione, si sta ignorando il trauma. Se forzi un'interazione quando l'organismo è dissociato in quel modo, non fai altro che confermare al cane che il mondo è ostile e che lui non ha vie di scambio. Ma, allora, come si tira fuori un individuo da questo buco nero? Cioè, come si fa a riportarlo su? Al circuito della sicurezza. Nelle fonti ho letto di un meccanismo che ha un nome quasi fantascientifico, la copia efferente. Ah, sì. La copia efferente è un vero capolavoro di bioingegneria. Diciamo che per sentirsi al sicuro un animale ha bisogno di percepire la propria agentività. Agentività, cioè il sentirsi padrone delle proprie azioni. Esatto, sentire che si ha un impatto sul mondo. E come si ottiene? Con la copia efferente o messaggio fantasma. Ogni volta che il cervello pianifica un movimento volontario, manda due segnali. Il primo va ai muscoli e dice «Ok, contraetevi». Il secondo, la copia efferente, va alle aree sensoriali del cervello. Una predizione? Precisamente. Dice «Stiamo per fare un passo, quindi aspettati di sentire questa pressione sotto la zampa». Se, quando l'azione avviene, la sensazione reale coincide con la predizione del messaggio fantasma, il cane sa che è lui al comando. È lui che agisce sul mondo. Wow. Aspetta, fermiamoci un secondo su questo punto, perché chiarisci un mistero buffissimo che tutti abbiamo sperimentato. Il solletico. Esatto. Cioè, perché non riusciamo a farci il solletico da soli? Se io mi tocco un fianco, il mio cervello ha già mandato la copia efferente. Sa esattamente dove e quando le dita toccheranno, quindi niente sorpresa. Ma se qualcuno mi tocca all'improvviso da dietro, faccio un salto enorme. Lo stimolo tattile è uguale, ma manca la predizione, manca la copia efferente. Centrato in pieno. Quando lo stimolo arriva dall'esterno, senza che ci sia una predizione interna, il cervello lo codifica come una cosa fuori controllo. E per un sistema già in allerta, fuori controllo significa immediatamente minaccia. Pensa a cosa vuol dire questo per un animale fobico. Caspita. Se hai un cane rintanato in un angolo, terrorizzato, e tu allunghi la mano per accarezzarlo cercando di consolarlo, gli stai imponendo uno stimolo per cui lui non ha generato nessuna copia efferente. E quindi, in buona fede, pensando di confortarlo, lo priviamo dell'unica cosa che gli servirebbe davvero, il controllo. Lo fai sentire agitato e non agente, aggravando il suo terrore. Per questo la cura è l'autoiniziazione. Devi fermarti, creare spazio e lasciare che sia lui a fare il primo passo verso di te. Un millimetro alla volta, ma volontario. Esatto, perché ogni passo fatto di sua volontà genera una copia efferente. Lui prevede il terreno, prevede la distanza che si accorcia e piano piano ricostruisce la mappa di un mondo prevedibile, dall'interno verso l'esterno. È affascinante. La sicurezza deve nascere dall'interno. Ora, tutto questo spiega come viene vissuto l'ambiente circostante, ma c'è un'altra parte delle fonti che sembra pura magia nera, ma in realtà è genetica. Parlo delle paure dei fantasmi. Da dove arriva il panico per qualcosa che il cane non ha mai vissuto sulla sua pelle? C'era questo riferimento a Carl Jung, l'inconscio di specie e di razza, applicato ai cani. Già. Bisogna capire che nessun animale nasce come una lavagna vuota, una tabula rasa. Attraverso la genetica c'è un'eredità psichica, una memoria del sangue. L'inconscio di specie è un vero e proprio archivio di paure ancestrali, condiviso con il lupo. Sono archetipi legati alla sopravvivenza. E gli esempi che citavano le fonti? Cioè, mi faranno guardare un normale salotto di casa in modo diverso. Per un cane, un soggiorno di città, un campo minato di predatori. Eh sì. Immagina una scopa appoggiata al muro. Una normalissima scopa. Per un cervello che si è evoluto in decine di migliaia di anni nella foresta, una forma allungata e verticale che può abbattersi all'improvviso richiama l'archetipo di un ramo che cade o di un'arma. Oppure pensa al ventilatore a soffitto. Ah, quello è incredibile. gira silenzioso e proietta sul pavimento ombre intermittenti. L'amigdala del cane lo associa in millisecondi all'ombra di un predatore alato, un'aquila, un gufo. E questo scatena il panico, magari, in un cagnolino che è nato in un appartamento a Milano e non ha mai visto un'aquila in vita sua. C'era anche l'esempio della sedia rovesciata, giusto? Sì, le gambe di una sedia all'aria formano una V spalancata. Per il circuito d'allarme è la sagoma archetipica di una bocca aperta con le zanne. Impressionante. Attiva direttamente la via bassa di cui parlavamo prima. Esatto. Ma non c'è solo la memoria di specie, c'è anche l'inconscio di razza. Noi umani abbiamo selezionato geneticamente i cani per secoli, esasperando alcune sequenze motorie. Il caso più clamoroso citato nelle fonti è quello del Border Collie. Il cane da pastore per antonomasia. Esatto. Nel Border Collie l'amigdala è ricalibrata per attivarsi quasi istantaneamente davanti a qualsiasi movimento rapido. Loro non vogliono uccidere la preda. Il loro istinto è fissarla, accerchiarla e bloccarne la traiettoria. È il movimento della conduzione del gregge. E se questo cane vive in città dove non c'è l'ombra di una pecora, l'istinto mica si spegne? Ma che? L'istinto cerca in modo quasi ossessivo un bersaglio sostitutivo per scaricare quella pressione. E allora una bicicletta, o un monopattino, o un runner diventano pecore meccaniche. E sai, molte persone pensano che sia cattiveria o disobbedienza. Mentre in realtà, da quanto ho capito, non c'è nessun ragionamento. Il testo usa un termine molto tecnico, affordance magnetica di tipo bottom-up, che, tradotto in parole semplici, significa che è uno stimolo che entra dal basso e sequestra i muscoli. Perfetto. L'input visivo della ruota della bicicletta aggira del tutto la parte razionale del cervello. Quel decimo di secondo non passa per la corteccia. È un riflesso di pura sopravvivenza psichica. Per il Border Collie rimettere in ordine quel movimento caotico non è un passatempo, è un bisogno viscerale. Quindi, mettendo insieme i pezzi, amigdala che va in tilt, blocchi polivagali, ombre minacciose e pecore meccaniche. Quando un organismo è così sotto pressione, come ne esce? Come si cura lo stress? Perché qui la differenza tra noi umani e i cani è bella grossa. È abissale. Noi esseri umani di fronte a un trauma o a un forte stress usiamo l'abreazione, cioè andiamo in terapia, ne parliamo, rielaboriamo l'evento a livello cognitivo, usiamo il pensiero razionale per trovare una catarsi. Parliamo dei nostri problemi per svuotare il famoso secchio dello stress. Ma i cani non possono farlo. Non hanno quell'architettura per elaborare il passato in modo verbale. Loro usano la dissipazione. Non analizzano l'evento. Devono letteralmente scaricare a livello fisico i neurotrasmettitori rimasti in circolo. E questo, immagino, spieghi tutte quelle scrollate violente che fanno. Quelle che partono dalle orecchie e arrivano alla coda. Esattamente. Si stanno letteralmente scrollando via il cortisolo di dosso. Anche gli sbadigli nervosi servono a questo. A volte chi ha un cane blocca questi comportamenti, pensando siano stranezze, e invece sono la valvola di sfogo del corpo per ritrovare l'equilibrio, l'omeostasi. Però l'omeostasi non è solo nei muscoli. Un altro punto focale è l'asse intestino-cervello. E qui entriamo in un campo pazzesco. Il microbiota è la frontiera della biologia. L'intestino funge da secondo cervello. I batteri che vivono lì dentro producono precursori vitali come la serotonina, che regola la calma. Un intestino infiammato manda segnali d'allarme continui al nervo vago, tenendo l'amigdala sempre sul chi va là. Che per chi ci ascolta è una notizia bellissima, secondo me. Cioè, toglie un sacco di pressione. Non dobbiamo essere per forza degli psicanalisti per cani. A volte per curare un problema comportamentale o abbassare l'ansia, bisogna partire dalle basi biologiche. Il sonno, la dieta, curare la pancia. Esatto. Fornire stabilità biologica prima di tutto. E a proposito di pancia, c'è un dettaglio su come la digestione dei cani è cambiata che per me è la prova definitiva di come ci siamo influenzati a vicenda. L'enzima dell'amilasi. Sì, la mutazione per digerire gli amidi. Il cane discende dal lupo, un carnivoro. Però nel corso dei millenni vivendo con l'uomo, i cani hanno sviluppato copie extra di questo gene per digerire gli scarti dell'agricoltura, tipo grano, pane. È un adattamento sbalorditivo. Hanno cambiato i loro enzimi digestivi e il microbioma per poter sopravvivere vicino ai nostri insediamenti. Si sono adattati fisicamente per condividere il nostro stesso spazio di risonanza. Non è solo socializzazione, è un cambiamento cellulare. Proprio così. E tirando un po' le fila di tutto questo, smettere di vedere il cane come una macchina da controllare significa capire che se esplode forse l'amigdala è infiammata. Se sta fermo immobile, forse c'è un collasso del sistema vagale. Non serve un dominatore che imponga il comando. Serve un archetipo di sicurezza. Qualcuno che fornisca una cornice solida in cui i radar della minaccia possano spegnersi. Lasciando che il cane inizi l'interazione rispettando i suoi tempi biologici. Solo così il complesso vagale ventrale si accende e nasce la vera risonanza. È il corpo che sa cosa fare. Il corpo che sa. Mi sembra la sintesi perfetta. E per chiudere, mi sento di lanciare a chi ci ascolta una riflessione un po' provocatoria, su cui magari rimuginare. Prego. Abbiamo visto come un'intera specie, il cane, abbia modificato il proprio sistema nervoso, le reazioni di allarme e persino i succhi gastrici per sintonizzarsi con noi. Ma la biologia funziona raramente a senso unico. Viene spontaneo chiedersi, ma noi umani stiamo subendo una mutazione speculare magari senza accorgerceni? Il nostro sistema polivagale o la nostra produzione di ossitocina, l'ormone del legame, si stanno biologicamente evolvendo per avere un bisogno fisico della loro presenza? Insomma, dopo decine di migliaia di anni di convivenza, chi è che sta veramente addomesticando chi a livello cellulare? Potatv.it. Oltre lo specchio, dentro la mente. Scienza, affordance e vita quotidiana con il tuo cane. Scuolaformazionecinofila.it.